vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 3 luglio il sole in regione è sorto alle 5:21 e tramonterà alle 21:02. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Oggi il primo di una serie di report ERSA che raccontano il mondo dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia tra Covid e conflitti. Partiamo proprio dal quadro 2021 in piena crisi sanitaria. Nella rubrica del bio parleremo della frenesia produttivista di cui sembra essersi impossessata la politica agraria europea nonostante le dichiarazioni orientate a una svolta verde rispettosa dell'ambiente. Mentre in cantina andremo a scoprire l'influenza della temperatura sui diversi processi di fermentazione. Protagonista dell'orto oggi è la patata dolce, nutriente, zuccherina, ben resistente alle malattie, mentre per l'angolo della gastronomia di territorio oggi il perché di un famoso abbinamento, formaggio e pere. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una nota di climatologia locale e proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Misura lo stato di salute del settore primario il rapporto ERSA sulla congiuntura che fotografa un anno, il 2021, che ha risentito pienamente degli effetti della pandemia, ma su cui ancora non era piombato il conflitto in Ucraina. A scattare questa fotografia sono stati Daniele Rossi e Laura Zoratti. Proprio a Zoratti, che è tecnico del Servizio Statistica Agraria dell'ERSA, chiediamo in un flash il valore della produzione agricola 2021, in aumento o in calo? Valore della produzione agricola 2021 in aumento, un valore prossimo al 1,3 miliardi di euro, che si è ristabilito sui valori prepandemici grazie ad un aumento dei prezzi delle materie agricole, in particolare nella seconda parte dell'anno. Numero di aziende, di addetti in questo settore primario? In regione parliamo di oltre 12.000 imprese, sebbene ci sia un trend in calo, ma quello che si è notato nell'ultimo anno è che a fronte di un calo delle imprese individuali c'è un aumento delle imprese di tipo societario. Per quanto riguarda gli addetti, ne abbiamo oltre 25.000 nel comparto agricolo in regione. Nel report c'è già una prospettiva di quelli che saranno i risultati del 2022 con un'agricoltura che, come altri comparti, risente degli effetti della guerra. Laura Zoratti, torniamo allora al quadro 2021 con la viticoltura, che è sempre la voce più importante del comparto. La viticoltura è decisamente il comparto trainante del settore agricolo regionale, e parliamo di oltre 28.000 ettari. Anche nel 2021 abbiamo avuto un aumento di superfici del più 1,3%. L'annata è andata molto bene anche dal punto di vista produttivo, con un più 9,5% sul 2020 in termini di uva prodotta. In base ai risultati economici, la crescita più netta è quella delle coltivazioni industriali e ci avviciniamo ai cereali, quindi, che sono veramente tornati alla ribalta quest'anno. Che cosa succede? Succede che dopo la pandemia si è verificata una situazione in cui c'è stato un aumento dei costi dei trasporti, la Cina ha condizionato i mercati perché si è approvvigionata sui mercati mondiali di cereali oleaginose per ristabilire gli allevamenti suini, e quindi questo ha condizionato fortemente i prezzi a livello internazionale, che si sono ripercossi anche a livello locale. Quindi durante tutto il 2021 abbiamo visto un aumento costante dei prezzi, che hanno fatto sì che il valore delle colture, anche in quelle dove c'è stato un calo di produttività, ne abbia risentito positivamente. Ci trasferiamo adesso nel settore zootecnico. Quali risultati nel 2021, prima che intervenissero queste nuove incertezze? Il 2021 è andato bene, c'è stato un generale aumento del numero di allevamenti, anche la produzione è andata bene. Nella seconda parte dell'anno hanno risentito anche loro dell'aumento dei prezzi delle materie prime, da cui ne derivano i mangimi. Parlando però di produzioni come Montasio e San Daniele, sono andate molto bene, sono con una produttività buona. Colture orticole e frutticole segnano proprio queste ultime un importante calo di valori. Dov'è il problema qui? Nel 2021 c'è stato un evento particolare nel mese di aprile, dove ci sono state delle gelate in fase di fioritura che hanno condizionato pesantemente la produzione, quindi questo ha influito negativamente purtroppo sulla produzione di frutticole in regione. Segni più e segni meno nel settore ittico, perché? Il settore ittico è un settore sempre molto variabile perché è molto legato a quello che è l'andamento del clima e della stagionalità, quindi ci sono annate in cui alcune specie vengono pescate in quantitativi buoni e altre invece di meno, insomma. Eppure l'export del Friuli Venezia Giulia cresce, trascinato sempre dal vino. Con che valori e con quali prospettive anche? Allora, l'export è un settore che va molto bene con un trend che si protrae da alcuni anni, e dopo un 2020 con una leggera flessione dovuta alla pandemia, nel 2021 c'è stato proprio un bel rimbalzo che ha portato ad aumentare il valore, che ha superato il miliardo di euro. Come diceva, è stato trascinato dal comparto del vino, ma tutti i settori hanno risentito positivamente dell'export, favorito dalla riapertura e dall'allentamento delle misure restrittive da Covid. Guerra, spettro, carestie e conseguente spinta ad una maggiore produzione agricola non è la soluzione, ci dice Cristina Micheloni. Il problema fondamentale resta il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, ma la transizione ecologica è ostacolata dal revisionismo produttivista. Continua la frenesia produttivistica che obnubila totalmente la realtà del problema. Di che cosa parlo? Del fatto che la crisi climatica ed ambientale e ci precipita in un baratro dove vivere, di cui il mangiare fa parte ma non è il solo elemento, rischia di essere un privilegio per pochi. Però tutti guardano altrove e percepiscono come più pericolosa ed urgente la crisi provocata dagli eventi bellici su cui gli speculatori professionisti fanno affari spaventando il popolo con lo spettro della carestia. Il rischio carestia c'è, ma dipende molto di più dalla perdita di biodiversità, dal cambiamento climatico indotto dalle attività umane e dal fatto che su questi temi continuiamo a guardare dall'altra parte. Ricordate la decisione di un mese fa di mettere a coltura le aree di valore ecologico, le cosiddette EFA, previste dalla PAC? Ovvero quel 5% delle superfici a seminativi che obbligatoriamente nelle aziende convenzionali più grandi di 15 ettari dovevano essere gestite senza uso di input quali fitofarmaci o diserbanti, quelle che invece ora possono essere coltivate senza limitazioni. La decisione fu presa per rispondere alla richiesta di più produzione europea, portando così in teoria 200.000 ettari in più a livello nazionale di superficie coltivata per produrre cibo. In realtà già parte di tali aree erano coltivate a leguminose e in buona parte erano aree davvero marginali per la produzione agricola, quindi poco guadagno in termini di produzione e tanto danno in termini ambientali. Guardiamo la pubblicazione del JRC sull'abbandono dei terreni agricoli nell'Unione Europea e leggiamo che dal 2015 al 2030 circa 20 milioni di ettari di terra agricola, ovvero già coltivata in parte e tuttora in uso agricolo, è ad alto rischio di abbandono. Si tratta di terreni che non sono stati convertiti a bosco o cementificati per farci un centro commerciale, quello è un altro conto che si dovrebbe fare, ma di terra che semplicemente non viene più coltivata e che prima ospiterà rovi e forse tra un certo numero di anni, ma forse, diventerà bosco. Ma perché viene abbandonata? Per motivi diversi che vanno dalla degradazione del suolo, alla salinizzazione, all'erosione, al compattamento eccessivo, alla perdita di sostanza organica, ma anche perché in aree scomode da raggiungere, perché in zona non ci sono più contadini, perché rende poco. In parte sono aree di pascolo e di prato, ma soprattutto aree coltivate a seminativo. 20 milioni di ettari sono l'11% delle terre agricole dell'Unione Europea. Auspicabilmente la frenesia produttivistica di cui sopra ne rallenterà l'abbandono. Ma come? Come si può controvertire la degradazione dei suoli e la bassa redditività per chi li lavora, se non con una gestione agricola diversa? Proprio quella che la transizione ecologica consentirebbe e che invece il revisionismo produttivista ostacola. Ancora qualche numero. Dai primi dati del censimento dell'agricoltura italiana del 2020 risulta che dall'82 al 2020 due aziende su tre in Italia hanno chiuso, con caduta verticale negli ultimi 20 anni. La SAU è diminuita del 20%, sempre dall'82 al 2020, e di solo il 2,5% negli ultimi 10 anni, meno del numero di aziende, perché quelle rimanenti si sono ingrandite. Ma almeno un dato positivo per il Friuli Venezia Giulia: dal 2010 la SAU regionale è aumentata del 3%, dopo però che era crollata tra l'82 e il 2010. Insomma, la terra non è il fattore limitante, ce n'è da coltivare per produrre il cibo che ci serve, magari anche senza sprecarlo. Il limite è tutto nella testa degli umani, che a cambiare qualcosa nelle abitudini agricole o alimentari fanno davvero troppa fatica, mentendo a se stessi, anche davanti all'evidenza. Il Roberto Zironi, professore di tecnologia enologica all'Università di Udine, ci parla oggi dell'influenza importantissima della temperatura nelle fermentazioni vinarie sviluppate da lieviti e batteri. La trasformazione del mosto d'uva in vino è un processo polimicrobico in cui i lieviti di batteri presenti nell'ambiente di vinificazione sviluppano contemporaneamente o si susseguono in diverse fermentazioni, contribuendo alla produzione della bevanda. Tra le varie condizioni ambientali che favoriscono lo sviluppo delle diverse specie microbiche, il fattore temperatura assume un ruolo preminente. I lieviti sono in grado di sopravvivere in un intervallo di temperatura molto ampio, ma la temperatura in cui sono metabolicamente attivi è compresa tra i 10 e i 35 gradi centigradi. A partire da 10 gradi centigradi il tasso di crescita aumenta fino a 30 gradi centigradi, dopodiché si ha una brusca inversione di tendenza che porta normalmente ad un blocco della divisione cellulare ad una temperatura di 35 gradi. I batteri lattici del vino sono organismi la cui temperatura ottimale di crescita si aggira intorno a 25-45 gradi centigradi, con variazioni in funzione della specie e delle condizioni ambientali. Per l'enococcus aeni nel vino, a causa della presenza dell'etanolo, l'ottimo di temperatura si colloca su valori tra 20 e 23 gradi. Una temperatura di 14-15 gradi inibisce quasi completamente lo sviluppo di questi batteri, anche se le cellule rimangono vitali anche per alcuni mesi. La crescita di pediococchi e lattobacilli risulta invece favorita da temperature prossime ai 25 gradi. Nelle fermentazioni spontanee, la popolazione di batteri lattici inizialmente tende ad aumentare. Successivamente, in seguito al normale decorso della fermentazione alcolica, il numero dei batteri lattici diminuisce, iniziando una fase di latenza. Normalmente, a fine fermentazione, si riscontra come prevalente Enococcus aeni, che è la specie più resistente nell'ambiente acido e alcolico. Per pH superiore a 3,5 si può evidenziare la presenza anche di lattobacilli e pediococchi. Nelle fermentazioni guidate, l'enologo interviene per favorire la dominanza dei lieviti rispetto ai batteri. Gli strumenti a disposizione dell'enologo sono molteplici ed interessano tutta la filiera produttiva sinora descritta, ma la fase più importante è però quella che definisce la temperatura di fermentazione, che insieme al pH abbiamo visto essere il principale fattore di selezione naturale per favorire le attività metaboliche dei saccharomiceti rispetto a quella dei batteri lattici. In particolare, i valori di temperatura inferiore a 20 gradi e di pH inferiore a 3,2 permettono al lievito di sviluppare bene, mentre l'attività dei batteri lattici è fortemente limitata. La gestione termica della fermentazione alcolica, oltre alle altre implicazioni che saranno illustrate nel prossimo appuntamento, è quindi un importante strumento a disposizione dell'enologo per gestire le attività di diversi microrganismi nella produzione del vino. Nell'orto di Sarabosco andiamo oggi alla scoperta della patata dolce. Un ortaggio originario dell'America centrale, ma che può essere coltivato anche nel nostro territorio, con buoni raccolti. È una pianta che non richiede grossi accorgimenti, se non un clima mite e delle irrigazioni durante l'allevamento, cercando però di evitare che la terra si asciughi completamente. Ha un ciclo colturale lungo, non viene attaccata da molte malattie ed è caratterizzato da un elevato contenuto zuccherino. Le piante sono costituite dalle radici che si ingrossano e formano la batata che poi mangiamo e da un fusto strisciante che raggiunge anche 2-4 metri. Può essere messa a dimora mediante taleo o piantina, con le piantine si ha una maggior sicurezza di attecchimento, ma anche un costo di investimento maggiore. Le talee portano via del tempo per la loro formazione, ma sono ottime per mettere a dimora questa cultura. Si prende una batata, la si pone in un barattolo con dell'acqua in un ambiente che garantisca una temperatura minima di 12-15 gradi e col trascorrere dei giorni questa produrrà dei germogli che vanno prelevati e poi posti nel terreno, quando però le gelate ormai non sono più un pericolo. Richiedono dei terreni con pochi sassi drenanti e con un buon contenuto di sostanza organica. Vengono messe a dimora a una distanza tra le plantule di circa 40 cm sulla fila e tra le file di 70 cm. Può essere messo anche un telo di pacciamatura per garantire umidità ed evitare lo sviluppo di erbe infestanti, oppure può essere mantenuto pulito anche mediante delle sarchiature. Un'altra soluzione che potrebbe essere impiegata è anche l'utilizzo di dei sostegni per andare a rialzare l'apparato aereo. in modo da evitare l'insorgenza anche di malattie fungine. La raccolta avviene dopo circa 5 mesi dalla formazione della piantina e viene eseguita come le classiche patate. Una volta raccolte vanno conservate in un ambiente asciutto che non scende a temperature troppo basse perché potrebbe causarne la marcescenza. Formaggio e pere, binomio perfetto, tanto da diventare proverbio con la ricetta di Roberto Zottar, quella che era solito proporre uno dei più noti e rimpianti chef friulani. Al contadino far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. I proverbi, che trasmettono oralmente trucchi di vita, la cosiddetta saggezza popolare, possono avere anche risvolti gustosi. Al contadin non far sapere è l'inizio di un adagio famoso, ma difficile però da decifrare. Come può un ammonimento di saggezza popolare escludere dal sapere il contadino? Massimo Montanari, storico dell'alimentazione che ha scritto sul detto un libro, scopre che i palati esigenti e gli stomaci delicati della nobiltà si innamorano del formaggio con le pere sin dal Medioevo. A un certo punto l'abbinamento diventa espressione di un savoir-faire socialmente esclusivo. Ciò accade quando l'idea medievale del gusto, come capacità naturale, è sopravanzata dall'idea moderna del buon gusto, come attitudine culturale. Il guaio è che in questo caso la cultura popolare non sta dalla parte di chi recita il proverbio. Il contadino in questo caso è il nemico. Del resto i proverbi servono a ricordare le cose, non a ricordarsi di tenerle segrete. Si tratterebbe quindi di uno strano caso di proverbio dei ricchi cittadini che si organizzano contro i contadini per motivi poco chiari. Il formaggio e le pere li fanno i contadini, se sapessero li mangerebbero loro e soprattutto non avrebbero più bisogno delle città. Perché questo abbinamento nasconde il sapere e la cultura, il gusto e la scaltrezza che da sempre sono state associate alla cultura urbana, la cultura di chi consuma il cibo ma non lo produce? Dietro a questo adagio c'è tanta storia contadina, i rapporti tra padrone e contadino, quando quest'ultimo era tenuto in piena soggezione e tutti i prodotti migliori andavano alla mensa del proprietario. Bisognava tenere pertanto il contadino all'oscuro di queste prelibatezze per evitare che si trattenesse i prodotti per sé. Tempi passati, mi direte, ora pere e formaggio sono ovunque, i contadini sono degli imprenditori agricoli e il mercato ha dato la possibilità di accesso a tutti. In ogni caso è da poco disponibile dai nostri alpeggi il formaggio fresco di Malga. Prendiamone due etti e affettiamolo a bastoncini molto sottili. Mondiamo due etti di rucola e disponiamola su un piatto. Adagiamoci sopra il formaggio e tagliamo anche a bastoncini molto sottili due pere abate e sistemiamole sul formaggio. Condiamo con un filo d'olio e qualche griglio di noce o dei semi di sesamo tostati. I segreti di questo semplice piatto estivo, di cui ho uno splendido ricordo per averlo mangiato da Gianni Cosetti al ristorante Roma di Tolmezzo, è di trovare pere e formaggio della stessa consistenza e di tagliarli ugualmente sottili. Buon appetito! E con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari, venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 32,50 e 32,80 euro il quintale, IVA esclusa. Il frumento nuovo raccolto tra 33,30 e 33,80 e l'orzo, peso specifico 62,65, tra 28,70 e 29,20. Rispetto ad un anno fa, il mais è aumentato di 8 euro il quintale e l'orzo di 11,30 centesimi. Stabile l'andamento dei bovini da macello. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 3,20 e 3,70 euro il chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 2,60 e 3,20. C'è un leggero rialzo invece nel settore dei vitelli da ristallo, dove i blubelga maschi vengono quotati tra 6,20 e 6,70 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 4,50 e 4,90, i frisoni tra 2,10 e 2,40 e i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Mercato diversificato nel comparto suinicolo, con il lattonzolo di 30 kg quotati franco partenza a 3,16 euro il chilo, IVA esclusa, e i grassi da macello a 1,70 il chilo. È proseguito l'aumento nel settore caseario, dove la Commissione Camerale di Pordenone Udine giovedì scorso ha quotato il montaggio di 90 giorni tra 7,40 e 7,70 euro il chilo, IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 8,50 e 8,80, con un marchio di qualità tra 9,50 e 9,80, lo stagionato 12-15 mesi tra 8,90 e 9,30. Migliora anche il prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotato franco stalla tra 48 e 50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine scambi fiacchi con prezzi stabili nel settore degli avicunicoli. Il valore dei polli a terra varia tra 1,57 e 1,59 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,51 a 3,55, i tacchini maschi da 2,28 a 2,30, le faraone da 3,85 a 3,95, i conigli oltre di 1,5 kg da 1,58 a 1,64 e le uova oltre 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 19 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, Sergio Nordio, il meteo per la settimana entrante e un breve contributo di climatologia locale. Giugno si è appena concluso e viene archiviato come il terzo mese di giugno più caldo degli ultimi 30 anni, dopo il 2003 e il 2019, riferendosi alla media delle temperature medie giornaliere per la pianura friulana, che è stata di 24,4 gradi, 3 gradi in più rispetto alla norma climatica. Martedì scorso abbiamo raggiunto i picchi massimi di 37,3 a Palazzolo dello Stela e a Sgonico, che rappresentano i record assoluti per il mese di giugno per queste zone della regione. Le piogge mensili sono state decisamente scarse, ancora sotto la media, sulla bassa pianura e sulla costa, più abbondanti man mano che si procede verso nord, con valori anche sopra la media in Carnia e localmente anche sulle prealpi carniche. Mercoledì scorso, fra la Val Settimana e la Val Tagliamento, localmente sono stati registrati anche più di 200 mm, con picchi di 150 mm caduti in solo 2 ore. L'anticiclone africano, che è ancora ben presente sulla regione con masse d'aria molto calde, inizierà a cedere lentamente domani pomeriggio e probabilmente si ritirerà in maniera un po' più decisa nella seconda parte della settimana. Già domani pomeriggio, dopo una mattinata stabile e soleggiata e dopo che avremo raggiunto ancora temperature molto elevate in pianura, con massime attorno ai 35-36 gradi, inizieranno a formarsi dei temporali, localmente anche forti, sulla zona montana. Successivamente qualche temporale potrà interessare anche la pianura. Da martedì, con l'arrivo a più riprese di masse d'aria progressivamente un po' più fresche, inizialmente però solo in quota, la probabilità di temporali diventerà più elevata su tutta la regione e fra mercoledì e giovedì anche le temperature nei bassi strati dovrebbero scendere un po' dappertutto, e a tratti ricomparirà bora moderata sulla costa e sulle zone orientali. Verso la fine della settimana sembra dominare maggiormente la scena europea la presenza di masse d'aria più fresca proveniente dall'Europa settentrionale. Quindi dovremo avere condizioni più gradevoli e saranno però ancora possibili dei temporali sparsi. Ma è importante seguire costantemente gli aggiornamenti, vista la notevole dinamicità dell'atmosfera che si prospetta nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Nou ros la mattina, la sera plovisulina, ovvero se ci sono nubi rosse al mattino, la sera ci sarà pioggerellina. Coordinamento tecnico di Daniela Postu. Il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.